Ma perché quell'uno lo fece? E Dio che pone questa illuminante domanda e io per chiarezza ne trascrivo il contesto. Ed ecco, un'altra cosa che voi fate, coprite l'altare dell'Eterno di lacrime, di pianto e di gemiti, in guisa che egli non bada più alle offerte e non le accetta con gradimento dalle vostre mani. Eppure dite, perché? Perché l'Eterno è testimonio fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti conduci perfidamente, benché ella sia la tua compagnia, la moglie alla quale sei legato da un patto. Ma, direte voi, non venne, è uno che fece così? E non di meno lo spirito rimase in lui. Ma perché? Quell'uno lo fece, perché cercava la progenie promessagli da Dio. Badate dunque allo spirito vostro. E niuno agisca perfidamente verso la moglie della sua giovinezza, poiché io odio il ripudio. Dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, e chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti. Badate dunque allo spirito vostro e non agite perfidamente. Malachia 2, 13-16. Appare evidente in tutto il libro del profeta Malachia che Dio riprende il suo popolo perché questo mette in discussione tutto quello che Dio dice o fa. Per esempio, egli afferma di amarli ed essi affermano: In che tu ci hai amati? 1, 2. Egli afferma di essere disprezzato ed essi rispondono: Quando mai abbiamo disprezzato il tuo nome? 1, 6. Egli afferma di essere stanco delle loro parole ed essi risposero: In che lo stanchiamo noi? 2, 17. Egli afferma di essere stato derubato. Ed essi rispondono, in chi ti abbiamo derubato? 3, 8. Quindi balza all'occhio che il popolo non accettava volentieri le rimostranze di Dio, il quale, ancora una volta nel brano citato, afferma di non gradire più le offerte e le supplicazioni, perché esso ha fatto, della concessione del divorzio, un mezzo per fare i propri comodi, sapendo che i giudei avevano sempre una risposta pronta e un motivo scritturale per condursi in una determinata maniera, Dio li anticipava dicendo che forse essi si sentivano a posto, dal momento che neanche Abramo era stato fedele alla propria moglie, e non di meno lo spirito era rimasto in lui. Conosciamo il fatto di Abramo che, avendo una moglie sterile, sotto consiglio di questa, si unisce alla serva Agar. Ed è proprio a questo punto che Dio pone la domanda che ho riportata all'inizio del mio scritto: ma perché quell'uno lo fece? Lo fece per lussuria, per sfrenata passione sessuale? No, ma come dirà il Signore perché cercava la progenie promessagli da Dio? Quindi Dio, in un certo senso, sta difendendo più che l'azione l'intenzione di Abramo. Ed è qui che Dio voleva arrivare. Mentre i giudei si sentivano a posto perché non facevano cose che non avesse fatto Abramo, per Dio, il quale giudica le intenzioni più che le azioni, essi erano colpevoli, mentre Abramo non lo era. Che meravigliosa lezione da imparare! Non si può che dire con l'Apostolo Paolo: o profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio. Romani 11 e 33. Come cristiani del XX secolo che vivono in un mondo pieno di imbrogli, doppiezze, sotterfugi, malizia, siamo esortati ad imparare ad esaminare le domande di GESU. Mi sono sempre piaciute le domande che Dio, mediante la Scrittura, pone al nostro spirito perché esse stimolano a una verifica più profonda e sincera dell'amore che abbiamo per Lui. Non è a caso che Gesù pone delle domande, ma perché la persona interessata possa riflettere sulle sue intenzioni. La scena si svolge in un luogo abituale per Gesù, il Getsemani. Egli vi si trova con i suoi discepoli per pregare. Ad un tratto si avvicina uno dei dodici, Giuda, e gli dà un bacio. E Gesù in quel momento, preoccupato più per il suo discepolo che di se stesso, chiede: Amico, a fare che tu sei qui? In altre parole, che cosa ti ha spinto o con che intenzioni sei venuto in questo luogo? La scrittura non ci dice se Giuda abbia risposto, ma molto probabilmente questa domanda più tardi l'ha messo in crisi, al punto di fargli riconoscere il suo malvagio movente. Ed ora domandiamoci, cosa andiamo a fare alla riunione di preghiera? Perché andiamo al culto? Quali sono i motivi che ci spingono a partecipare a quel convegno o a quell'agape? Cerchiamo la comunione o la divisione? Cerchiamo il nostro interesse o quello della comunità? Parliamo per rancore o lo facciamo con sincerità da parte di Dio? Chi non pone onestamente a se stesso queste domande diventerà, usando l'espressione di Giuda, una macchia nelle agapi dei santi? Giuda verso 12. Un giorno Gesù rimproverò alcuni dei suoi seguaci perché non lo cercavano per amore, ma perché avevano mangiato dei pani ed erano stati saziati. Giovanni 6 e 26. L'esortazione dell'Apostolo Paolo è quindi più che mai attuale. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. 2 Corinzi 13, 5. Un'altra rivelatrice domanda di Gesù la troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 10. Il sommo sacerdote stava interrogando Gesù in merito ai suoi discepoli e alla sua dottrina, e Gesù gli disse di chiedere quelle cose a coloro che lo avevano udito. Una delle guardie a questa risposta lo schiaffeggiò, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote». Fu in quel momento che Gesù rispose: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» In altre parole, che cosa ti ha spinto a schiaffeggiarmi? L'ira o la pura giustizia? Rivolgiamo questa domanda a noi stessi. Quando riprendiamo un fratello, ciò è biblico, lo facciamo per rivendicazioni personali o per amor di giustizia? Togliamo il bruscolo all'occhio del nostro fratello perché egli ci ha tolto la trave o perché desideriamo che egli glorifichi meglio il Signore? Inoltre la reazione di Gesù ci insegna un'altra cosa. È vero che il cristiano è chiamato a porgere l'altra guancia a chi lo percuote, ma come Gesù può sempre chiedere a chi lo percuote il motivo del suo atto affinché l'altro possa esaminare i motivi che lo spingono ad agire e a parlare in una determinata maniera e ad esercitarsi in questo? E non diciamo come i giudei di essere scritturalmente a posto, perché l'intenzione può rendere ingiusta anche un'azione giusta. Non pregavano forse i farisei al tempo di Gesù? Sì. Ma le loro preghiere erano abominevoli davanti a Dio? Forse che la preghiera è un peccato? No, ma essi pregavano per farsi vedere. Quindi una cosa buona, giusta, santa, per una malvagia intenzione, può diventare cattiva, ingiusta, spregevole agli occhi dell'Eterno. E questo spiega perché due credenti, pur compiendo la stessa azione, non sono automaticamente approvati ambedue davanti a Dio. E il movente che dà il valore all'atto compiuto, per l'Apostolo Paolo, il più alto livello di servizio cristiano non giova a nulla se non è motivato dall'amore. 1 Corinzi 13. Anche Calvino, quando affronta il problema se si debba attribuire a Dio una qualche responsabilità per le azioni malvagie in cui la scrittura indica una sua qualche partecipazione, tiene presente il movente in questo mirabile commento. Per ben comprendere l'azione di Dio nei malvagi, consideriamo il danno inflitto dai caldei a Giobbe. Dopo aver ucciso i suoi pastori, gli rubarono tutto il bestiame. Gli autori del misfatto sono identificabili a prima vista. Se infatti vediamo dei ladri che hanno commesso qualche assassinio o ladrocinio, non abbiamo dubbi nell'imputare loro la responsabilità e nel condannarli. Ma il resoconto afferma che questo proveniva dal diavolo. Egli dunque ci ha contribuito per parte sua. D'altra parte Giobbe riconosce l'opera di Dio e afferma che Dio lo aveva privato dei beni di cui era stato derubato dai caldei. Come possiamo affermare che una stessa azione sia stata compiuta da Dio, dal diavolo e dagli uomini, senza con questo giustificare il diavolo che sembra agire in concordanza con Dio, oppure considerare Dio autore del male? La risposta è facile se si considera prima il fine e poi il modo di operare. Lo scopo di Dio era di esercitare la pazienza del suo servitore nell'avversità. Satana si sforzava di condurlo alla disperazione. I caldei cercavano con la rapina di arricchirsi con i beni altrui. Questa differenza di propositi distingue chiaramente l'opera dell'uno e dell'altro. Conclude poi dicendo: Non è dunque assurdo attribuire una stessa azione a Dio, al diavolo e all'uomo contemporaneamente. La diversità però del fine e della modalità fa sì che la giustizia di Dio risulti comunque irreprensibile, la malvagità del diavolo e dell'uomo si manifesti in tutto il suo obbrobrio. Istituzione della religione cristiana. Pag 425. Non sta forse scritto: tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma l'Eterno pesa gli spiriti. Proverbi 16:2. Ecco perché per due volte Dio esorta amorevolmente il profeta Malachia: badate dunque allo spirito vostro, cioè state attenti alle vostre intenzioni, il movente della propria azione. Concludendo queste considerazioni vorrei sottolineare lo scopo del mio scritto, cioè che ogni figlio di Dio possa esaminare, alla luce della Scrittura, la quale giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, le intenzioni che lo spingono ad agire. Come cristiani evangelici il nostro credo è sano, ma è necessario non perdere di vista ciò che lo può rendere malvagio. Settembre 1988, Wellero.